se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile e seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, convocatissimi tutti quanti, 800 24 0024, numero verde, Franco Piantaneda, autore di questo programma, Filippo Oreggi in regia. Evidentemente in coppia ci viene meglio, almeno nel tennis. Errani e Vinci in finale nel doppio, ma d'altra parte agli Australian Open naturalmente, ma d'altra parte sono la coppia numero uno del tennis mondiale femminile. Fognini e Borelli molto bene, vanno in semifinale anche loro. Già che ci sono, vi dico anche che la Williams Serena è stata battuta da Sloane Stephens, e in semifinale andranno maschile, andranno Murray e Federer dopo 5 durissimi set contro Tsonga. Di tutto questo parleremo dopo, se volete parlerete voi, 800 24 00 24. Intanto io sono molto perplesso, perché se non è Kakà sarà Drogba, leggo oggi. Non ho capito bene che cosa voglia fare il Milan, evidentemente un colpo da copertina, sorpresa, qualunque esso sia, salvo che poi un fiscalista alzi il dito. Ragazzi, meno male che tra un paio di settimane, no, tra sì, un po' di più, il 12 febbraio inizia la Champions League, che mi manca moltissimo, perché tra una Coppa Italia pure interessante, ma che mi provoca sempre una libido relativa, e un mercato che non capisco, che proprio non capisco, mi sta calando l'adrenalina. Digli quello che provi senza sembrare una ragazza per una volta. Mi manchi tanto che a volte mi fa quasi male. D'accordo, hai avuto una giornata dura, quindi lascerò perdere. Grazie. Troveremo un po' di tempo per noi. L'altra notizia invece importante che riguarda il mercato della Juventus odierno è questo ragazzo preso dal sub-20 sudamericano, si chiama Ceballos, è un trequartista classe 95, molto giovane. Alla luce delle sue non perfette condizioni, di una tendinopatia che affligge Vucinic, intanto stacco e vantaggio della Juventus con Peluso. Proprio lui, così criticato al debutto nella gara interna persa contro la Sampdoria, e Lazio che si fa sorprendere. Mi manchi più di quanto possa sopportare, ma abbiamo avuto il nostro tempo insieme. Pensate che in questo momento sto proprio rivedendo su Sky, per caso naturalmente, l'immagine di Drogba che batte il rigore decisivo alla finale di Champions League. Io saluto e ringrazio una voce storica del calcio italiano, cara soprattutto ai tifosi della Lazio, Michele Plastino, gol di notte. Ciao Michele. Buongiorno, e come sempre un ottimo lavoro, grazie. Grazie a te. Michele. No, ti faccio una piccola confessione. Tu sei un mio compagno notturno nelle repliche, sì, viaggiando dalle mie trasmissioni Roma-Napoli, sì, e quindi immagina che ora, e finalmente riesco a bearmi di calcio e non... Mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Vabbè. No, ma perché i nostri ascoltatori sono gente seria. Li aspetto, li convoco, 800 24 00 24. Convocali anche tu. Senti, io faccio un tifo infernale per un derby romano in finale, almeno un epilogo adrenalinico ci vuole. Ieri sera una buona Lazio, Juventus che non sembra, per un effetto ottico secondo me, poi così lontana, in campionato lo è, secondo me ben oltre quel più 5 su Lazio-Napoli. Allora, no, io non spero la stessa cosa, perché al di là del fatto che da un po' di tempo un po' di disamore lo avverto, però poi ricordo il mio bambino e il mio tifoso, e allora non me lo far vedere questo derby, ti prego, perché è un'angoscia infinita. Io meno derby vedo e meglio è, perché proprio è una vecchia paranoia quasi. Sì, ti comunque capisco, non sarebbe male, mi rendo conto, la Roma questa sera con l'Inter si gioca quasi tutto, perché insomma ha fatto meno punti quest'anno e l'anno scorso con il tanto bistrattato Luis Enrique, eccetera. La Lazio la meriterebbe questa finale per la stagione che sta facendo, e quindi mi sembra un bel epilogo, caro Michele, mi spiace per te. Sono d'accordo, anche se per la Roma o ci sono verdetti definitivi in suo favore questa sera o altrimenti conta un po' di meno, perché c'è grande critica nei confronti, no, della Roma, nei confronti di Zeman, ci si divide a Roma in due fazioni nette, ma se per caso il risultato rimane in bilico bisogna aspettare qualche mese prima di vedere il ritorno. Questa è una distorsione clamorosa, perché tra una settimana c'è il ritorno Lazio-Juventus, mentre il 17 di aprile, quindi tra un'era geologica, è il ritorno di questa, di questa partita. Senti, ieri sera sentivo a Speciale Calciomercato su Sky, che resta comunque il mio programma sportivo preferito, non perché me ne freghi più di tanto del mercato, ma perché lo trovo divertente. Sentivo che la Lazio tratterebbe Drogba, che avrebbe chiesto la risoluzione del contratto con i cinesi, e allora si vede che lo Tito ha vinto Super Enalot o 12 gratta e vinci da un milione di euro. Allora, essendo lui l'oggetto del mio disamoramento per la Lazio, perché sì, anche quando ti sentivo giorni fa che eri disperato per il problema che probabilmente lo Tito si presentasse e quindi disperato, non potevamo sì più sentirlo, sì, quello, il vecchio cuore laziale batte forte, perché a me non piace questa situazione di immagine. Comunque, a parte questo, anch'io sono trasecolato a questa notizia. È vero che l'appetito viene mangiando, però lui è uno che fiuta affari, quindi da questo punto di vista, se lo prende vuol dire che ha già organizzato tutto, perché parlo anche a livello di immagine, di sponsor, perché da questo punto di vista, ragazzi miei, è inappuntabile, nel senso che uno che bada molto ai propri fatti e quindi di conseguenza in questo caso anche ai fatti della Lazio. Ci credo poco, perché se ricordi bene era uscita anche la notizia di Lampard e a questo punto è una lampada che invece si è spenta immediatamente, non se n'è più parlato. Certo che però appunto sarebbe un grandissimo acquisto, anche se, e qui mi rifaccio a quello che hai detto tu per il Milan, non si capisce perché la Lazio stia così cercando eventualmente una punta nel momento che ha Klose e l'alternativa ce l'ha sempre avuta, perché se lo vogliamo considerare una riserva di lusso è Floccari, che è bravissimo, certo, ma evidentemente, perché altrimenti deve snaturare tutto, perché anche ieri quando ha fatto una specie di 3-5-1-1, quindi probabilmente il 3-5-2, la Lazio si snatura, non gioca bene e non capisco questa pressione per farla giocare con i tre di dietro, perché adesso forse va di moda, ma per me è un sistema con poche variabili, mentre invece quando poi si sistema col suo 4-5-1 tranquillo, una squadra è una squadra estremamente pratica. Michele, ti chiedo un secondo di pazienza per il traffico, poi chiudiamo la nostra chiacchierata. Salve, piacere, è la prima volta che sento lei e mi fa molto piacere intervenire. Benissimo. Si vuole che aspettiamo il traffico oppure come vuole? No, che traffico? No. Tutti convocati. Caro Michele Plastini, i miei ascoltatori di SMS insistono sui colpi elettorali e sugli scopi elettorali di questi nomi che circolano. Vale per il Milan, magari vale anche per lo Tito. Che comunque io, al di là dell'ironia, del fatto che mi diverta, anche se secondo me quest'anno l'erede vero di De Laurentiis, che ci ha lasciati un po' soli come dichiarazioni colorite, è Pulvirenti, non ho dubbi. Se invece Kakà, Drogba, Balotelli, non ho capito bene cosa voglia il Milan, se voglia ringiovanire la squadra, se cerchi un colpo da mettere in vetrina, si era detto che tutti questi quattrini non c'erano, poi magari spunta il fiscalista di turno e dice non se può fa. Beh, io al di là della par condicio, per cui credo che, bisog- che devo stare molto attento, e quindi parlo di Milan, e parlo di presidenza del Milan, è inevitabile che faccia parte di una strategia di comunicazione basata sul, sull'ottimismo, no? Sì. In un momento in cui il Milan rappresentava il pessimismo in assoluto, perché cioè, il Milan non era il Milan, al di là delle ultime partite, al di là che ha fatto tanti punti ora, il Milan non è quello a cui eravamo abituati. Per cui adesso l'idea di dare entusiasmo è chiaro che ha un valore propagandistico e anche, anche politico, è in linea, è assolutamente in linea. Sei stato chiarissimo, anche se poteva essere una linea anticrisi, cioè una linea che in tempi di crisi poteva essere quella dell'austerity, poteva essere un'altra idea. Senti, io comunque ti chiudo chiedendoti lumi, perché io di mercato non ci capisco nulla, soprattutto in questo nel mercato degli ultimi anni, perché non conosco, ti dico la verità, il 90% dei nomi stranieri che circolano. Secondo me è una cosa ormai per operatori, voyeur, cultori della materia, gente che passa la notte su YouTube a guardare filmati di giocatori dall'altra parte del mondo. Tu li conosci? Un millanta di conoscerli. Tu li conosci, sti qua? Tutti, allora, quelli che circolano. Vuoi la mia versione? Sì. Allora, non ti sono di grande aiuto. Nel senso che io credo che, e per questo ti apprezzo molto quando ti sento, il nostro servizio è quello di non dire stupidaggini alla gente. Sì. Io ho sempre ritenuto che il calcio mercato, adesso al di là dei professionisti che conosciamo, che ovviamente lo seguono, sia lo spunto per dare sfoggio della capacità di dire delle belle cavolate, perché io sono convinto che alcune notizie sono sempre state costruite a tavolino, già da prima. Immaginiamo adesso con l'avvento dei procuratori, che hanno una serie di giornalisti che sono legati al calciomercato, amici, che a volte la notizia te la danno per fare un po' propaganda al proprio giocatore, per cui anch'io seguo e leggo come se leggessi chi, cioè nel senso con divertimento sul gossip. E poi per quello che riguarda i giocatori, è come se su chi finissero delle racchie adesso, perché no, finiscono, almeno prima ci finivano e Topone, adesso questi nomi qua che girano io non so, no, chi ecco siano. Il calcio mercato da adesso, in relazione proprio a quella che hai detto, è come se vedessimo delle belle immagini in bikini ma non vediamo la faccia, perché non la conosciamo, cioè, esatto. Quindi non sappiamo bene chi siano, e te lo dice uno che è appassionato di calcio internazionale, che mi vanta il fatto di averlo portato io in Italia, però è impossibile per me conoscere tutti, tranne qualcheduno che magari ha proprio una sua paranoia che noi rispettiamo, certo. E che però andrebbe anche un po' curata, però non ti sono di grande aiuto. Mentre aggiungo, attenzione, non ne abbiamo parlato, perché poi non abbiamo parlato poi di scudetto, attenzione al Napoli. Se una volta De Laurenti smettesse mano un po' al portafoglio adesso, attenzione anche al Napoli, ovviamente anche alla Lazio con lo Tito, ma tutte e due potrebbero dar fastidio, perché ho visto Conte molto nervoso ieri. Sì, anche non mi è piaciuto nelle dichiarazioni del post partito. Grande allenatore. È un periodo che è nervosetto. Michele, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Michele Plastino. Adesso comincia il mio momento preferito, quello dei nostri convocatissimi ascoltatori, 800 24 00 24. Facciamo un gioco: non rispondete complimenti per la trasmissione, ma rispondetemi convocato ci sono. Fabrizio da Roma. Buongiorno Carlo. Mi convocato dica ci sono. Bravissimo. Tifoso della Lazio. Tifoso della Lazio. Sì, no, anche in virtù dell'incontro di ieri sera. Ma perché il portiere Marchetti non è, diciamo, preso in considerazione da Prandelli? Anche perché i portieri Sirico, Viviano, non vedo Ma io credo che lo prenderà in considerazione. Non dimentichiamo che è stato fermo una stagione in cui era già nel giro della nazionale, è certamente uno dei migliori portieri del nostro campionato. Adesso voi avevate Muslera che secondo me era invece uno dei peggiori, gioca nel Galatasaray insieme a Wesley Sneijder. Avete fatto un grande affare in questo scambio, secondo me, perché Marchetti è altra categoria rispetto a Muslera, tanto per fare un esempio. Serafino Cagliari. Buonasera. Sono convocato, ci sono, giusto? Convocato, allora, ci siamo, sì. No, ci siamo, ci sono, perché sono singolo. Va bene così. No, allora, io volevo parlare della Juve di due cose molto semplici. La prima è che non mi sembra che ci sia quasi lo stesso livello tra Juve e Lazio. Se qualche gol andasse più velocemente dentro ci sarebbe vista la differenza anche ieri. Lo so, ho capito, ma la Juventus ha tirato in porta, vabbè, 40 volte, ha fatto un gol. Sì, abbiamo giocato con la primavera, ma va bene. Poi la seconda cosa invece è dal tifoso di calcio. Io sono, quando vedo le squadre italiane, tifo per tutte in maniera uguale. L'importante è che non giochino contro la mia Juve, questo ci mancherebbe altro. Sì, questo non avviene da parte degli altri. In Italia si è o pro o contro Juve. Vorrei che crescessimo un po' tutti in questo senso. Sì, ma se si rimane nei confini del buon senso e del buon umore, aggiungo, può non essere un grande problema. Guarda che rifletta su quanto le ho detto, perché questo è un refrain importante. Ieri sera la Juventus ha tirato 40 volte, ha fatto un gol. Non è una banalità questa. Roberto Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Sono anch'io un tifoso della Lazio. Sì. Ho perso lo slot perché in realtà la considerazione era indirizzata a Michele. Io sono un gol di nottista da sempre. Sì. E Petkovic, il mister, una curiosità, è arrivato abbastanza sordino ai primi risultati per noi tifosi della Lazio, non è che ce l'avessero proprio presentato alla grande. Invece secondo me il valore aggiunto, la marcia in più fino adesso, è proprio lui, considerato che la squadra. Certamente, ma guardi Roberto, io la sento abbastanza male, però ho capito il senso. Secondo me fin qui nel rapporto tra i valori disponibili e i risultati ottenuti, allenatore dell'anno Petkovic addirittura. Poi non alla Lazio non si sono entusiasmati tanto per i risultati, anche perché semplicemente non lo conoscevano. Questo è stato un altro colpo importante, un'altra idea importante di Lotito, portare in Italia questo allenatore che era praticamente sconosciuto, che si è dimostrato comunque anche un uomo di grande intelligenza, parla perfettamente l'italiano, ha capito subito il nostro calcio, e questo non è semplice per nessun allenatore che arriva da oltre confine. Dicevo prima, tra poco ci fermiamo per la borsa, ma subito dopo riprenderemo a parlare con i tutti convocati di oggi, 800 24 00 24. Dicevo del vero erede di De Laurentiis nelle dichiarazioni più scoppiettanti. L'anno scorso De Laurentiis ci aveva fatto divertire, quest'anno non lo troviamo, non vediamo più, non parla più. E c'è Pulvirenti che ha risposto a Marotta, che l'altro giorno a questi microfoni aveva detto: le parole di Pulvirenti si commentano da sole. Vi ricordate quelle della zitella in crisi d'astinenza? Molto poco eleganti. Ha parlato ancora, sentiamolo. Io come faccio a rispondere a Marotta? Cioè, Marotta cosa poteva dire se non quello che ha detto? E lui che è un impiegato della Juve, no? E Agnelli è il suo datore di lavoro, quindi magari non ha detto quello che pensa, che ne so. Quindi che cosa gli rispondo a fare? Cosa gli dovevi dire a Marotta? Nulla. Vabbè, si prosegue su questo trend. Umberto Teramo, buongiorno. Buongiorno, tifoso dell'Inter. Sì. Mi volevo ricollegare al discorso di ieri, un attimo vado fuori tema, di Barcigia. Sì. Io ho sentito parlare molto male Barcigia di Zanetti, io non sono per niente convinto. Ma no, ma semplicemente è una questione. Ma no, non si stava parlando male di Zanetti, Umberto, intendiamoci. Si tratta solo di capire da che parte va la ricostruzione dell'Inter, perché Zanetti ha 39, ha 40 anni, insomma, è grandissimo giocatore, grandissimo uomo, grandissimo professionista, tutto quello che vuole lei. Però diciamo che l'Inter avrebbe bisogno di una rinfrescata, la mettiamo così, perché soprattutto quel centrocampo in cui sta brillando la stella di Guarin, mi sembra, così com'è, davvero non tantissima roba. Ci fermiamo Borsa e poi di nuovo insieme aspettiamo una campionessa. Volevo chiedere a Carlo Genta se di questi tempi a Radio 24, insomma, di economia ve ne intendete, parlare di calciomercato e denaro sia molto difficile. Tutti convocati. Che avrebbe voglia di parlare di arbitri anche per la partita di Coppa Italia di ieri sera, francamente non me la sento, però se volete siamo qui, è 800 24 00 24. Vedo che c'è un trasferimento di uno che conosco, Sorrentino, portiere del Chievo, che passa al Palermo per 3 milioni. Andrea da Como. Sì, buonasera, grazie dello spazio. Salve. Ascolti, salve. Io volevo intervenire a proposito della Juventus, sono un tifoso della Juve. Ma allora, secondo, io la penso un po' come lei, per quanto riguarda il campionato, nonostante non sono scaramantico, penso che siamo veramente più forti degli altri, sì. ma anche però di parecchio, però ho l'impressione che Conte durante le vacanze natalizie abbia un po' esagerato, secondo me, ecco, infatti non so se lei lo condivide, parlo proprio a livello di preparazione, cioè loro hanno fatto dal 27 dicembre, mi pare, fino a poco prima della ripresa del campionato, due sedute al giorno, sì. Quindi, e non di partite di pallone o torelli, sì, hanno fatto due sedute serie, sì, con la previsione di arrivare a marzo. Ma in un guardi, certo modo. Questo ce l'ha confermato, non so se ha sentito l'altro giorno lo stesso Marotta, no? Ha detto che hanno caricato molto durante il periodo natalizio. Se poi, esatto, però la mia, quello sì, infatti l'ho confermato anche lui, ma la mia considerazione è proprio che secondo me ha esagerato un po', perché qui abbiamo i muscoli fragili, oltre a essere sulle gambe, perché ieri la Juventus ha dominato in quanto azioni da gol. Con l'Udinese abbiamo dominato in quanto azione da gol, ma come gioco non ci siamo rispetto a dicembre. Sì, questo guardi, posso dire una cosa? Secondo me lo capiremo il 12 febbraio al Celtic Park, se la Juventus ha esagerato oppure no. Per il momento non abbiamo solo qualche indizio, un calo fisico dovuto ha un carico di preparazione notevole, un campionato che la Juventus sta gestendo. Io credo che si pensi da parecchio tempo a Torino a quella partita, a Celtic-Juventus, al ritorno, alla reentrée in Coppa, in Champions League. Allora, sono tornato su queste note che sono tra le preferite di Lance Armstrong, Camera dei Wilco, perché, beh, Margherita Granbassi non ha bisogno di presentazione, la conoscete tutti e la saluto. Ciao Margherita, ciao, grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ti ho fatto sentire una delle canzoni preferite di Armstrong. Oh, wow, la starà sentendo a raffica allora in questo momento. Sì. No, ma la ragione della convocazione parte da qui, poi parliamo d'altro naturalmente. L'altro giorno hai scritto un post su Facebook che è questo: che delusione Armstrong. Non è riuscito a mostrare neanche l'ombra di un pentimento, nemmeno per le telecamere. Da atleta provo vergogna per lui e sono molto dispiaciuta per tutti coloro che hanno creduto in lui. Merita solo di essere dimenticato. Condivido tutto, Margherita, salvo l'ultima frase. Credo che non fosse pentito, non sia affatto pentito, condivido la vergogna. Però sul fatto che debba essere dimenticato io non ci sto. Ho fatto il tifo per lui come per tutti i fenomeni dello sport che mi emozionano. E la delusione, quella delusione così forte, è sempre bene tenerla presente, anche se a Babbo Natale non ci crediamo più da un pezzo. Sì, certo, guarda, io ovviamente mi riferisco, quando dico di una persona che merita solo di essere dimenticata, in questo caso penso ad Armstrong, lo sportivo, no? Ovviamente io ho un giudizio di lui in quanto sportivo, ovviamente non posso condividere nulla di tutto ciò che ha fatto, anche perché è un caso veramente clamoroso, cioè per lui doparsi era come per noi, per un atleta normale, fare il riscaldamento, c'era cioè proprio il suo metodo di allenamento, e questa è una cosa assurda. La frase che mi ha colpito tantissimo è stata: era come mettere l'acqua nelle borracce, cioè una cosa, sì, un rituale che facciamo tutti i giorni, mettersi il nastro per proteggere le dita, scegliere la scarpina da ginnastica che è più appropriata, cioè, al tipo di allenamento che dobbiamo fare. Cioè, una questa cosa... superficialità nel, proprio anche di fronte ai compagni, di fronte ai massaggiatori, di fronte a molte persone che potevano e che poi lo hanno incastrato, questa superficialità, un delirio di onnipotenza più. Ma non che, ti fa pensare che fosse la norma anche per gli altri? Sì, questo non posso dire di esserne sicura, ma diciamo ci sono dei buoni motivi per pensarlo, per pensare che non fosse il solo Armstrong. Sicuramente in mezzo ad altre persone che magari utilizzavano le stesse metodiche, magari tra quelli sarà stato il più forte. Adesso qualcuno diceva forse anche il più bravo a scegliere le persone giuste per i dosaggi delle varie bombe che prendeva, però a questo punto ti dico, io non lo giudico un vero pentimento quello di Armstrong, infatti, perché penso, non lo è, è stato beccato ed ha confessato, non è che improvvisamente ha detto mi sono sentito malissimo per tutto quello che ho fatto, mi sono sentito uno schifo ad aver battuto altre persone con questo metodo, vado a dirlo a tutti, insomma, no? Ai giornalisti, alle televisioni, ha detto cose che già sapevamo, Margherita, ha detto cose che già sapevamo, non ha detto niente di nuovo. Però noi ci aspettavamo, capisci, probabilmente qualcosa, magari qualche nome, perché purtroppo se si vuole debellare questo fenomeno bisogna fare i nomi, bisogna fare in modo che la gente sappia, che le persone che contribuiscono a questo schifo abbiano paura, se la facciano sotto, vengano puniti. Ma sono d'accordo con te, anche questo vale secondo me anche per Schwarzer. Io non credo a nessun atleta che dice ho fatto tutto da solo e non sono stato coperto, non ci sono connivenze. Questo è... No, addirittura ho letto, diceva il professor Ferrari, il dottor Ferrari, una bravissima persona, per carità, io sinceramente questo lo metto un po' in dubbio, perché oltretutto, cioè, qui stiamo parlando d'accordo di prestazioni sportive, di appunto medicinali o che dir si voglia, o appunto sostanze che aiutano la prestazione sportiva, ma stiamo parlando di sostanze che probabilmente rovinano anche la salute delle persone. Certamente. Certamente. E ovviamente quando io dico nemmeno davanti alle telecamere è riuscito a pentirsi, lo dico perché almeno abbia il buon senso di essere di buon esempio per tutti i ragazzi giovani che ti vedono. Ma purtroppo non è la telecamera per il concetto narcisistico, no, che uno deve almeno davanti alla telecamera e fare l'ipocrita, però sai che ti stanno guardando milioni di persone, tra quelli ci sono oltre che tantissimi appassionati di uno sport bellissimo come il ciclismo, magari anche dei ragazzini. Sì, ma comunque per me vedere Armstrong e sentire quelle parole da lui è stato come prendere un pugno in faccia, al di là del fatto che non è pentito, al di là della correttezza di quanto dici, al di là del fatto che i veri problemi secondo me stanno, per quanto riguarda il ciclismo, tra i giovani e tra chi lo fa per alla domenica, perché lì io credo girino tante sostanze molto pericolose in maniera totalmente inutile. Senti Margherita, mentre arrivano via Twitter i saluti del tuo amico Diego Confalonieri per la sua carissima amica Marghe. Sì, mitico Diego. Hai ripreso... Ci conosciamo da una vita, poi non so se hai visto, ha fatto anche ha scritto l'hashtag col 1979, che è il nostro anno di nascita, insomma siamo sempre andati molto orgogliosi in un certo gruppetto di ragazzi della scherma del nostro anno di nascita, perché devo dire un gruppetto folto di atleti che hanno vinto tante cose. Ma ormai noi lo sentiamo spesso, lo usiamo come commentatore per la Juventus. Ah, ecco, tra l'altro anche in quello andiamo abbastanza devo dire. So perfettamente. Chi vorresti per la Juventus? Tanto non te lo prendono, ma comunque chi vorresti? Ma guarda, posso dirtela una cosa? A me la Juventus sta bene così. A me piace l'idea che siano in tanti a segnare, mi piace l'idea che ci siano dei giovani che sono cresciuti diciamo proprio nelle giovanili della Juventus e che continuino la loro strada nella squadra diciamo principale, e quindi io sinceramente non per ora sono contenta di tutti i calciatori che abbiamo. Insomma, hanno segnato veramente, veramente in tanti, forse non c'è bisogno di un top play. E poi a seconda di come vanno le cose, no? Per esempio, spesso si parla ovviamente del Napoli. Io sai che lavoro una trasmissione la mattina Super 8 su Rai Sport 1, e quindi ormai ci sto capendo qualcosa anche di calcio. E ogni tanto si parla di squadre come il Napoli. Ah, ma il Napoli sarà mica Cavani dipendente, e invece alla Juve manca il top player. Tanto diciamo, c'è sempre un motivo di dire che qualcosa manca o che qualcosa di più si potrebbe fare. Tu dici, io meglio la forza del gruppo, la forza del gruppo, tu dici, la pensi come Sconcerti, tanto per citarne uno, quindi un parere illustre a supportare la tua teoria. Ma per chiudere, Margherita, ho visto che hai ripreso gli allenamenti dopo intervento chirurgico non da poco alla cartilagine. Ho visto le foto, ti stai allenando durissimo. Poi c'è Super 8 ogni mattina su Rai Sport. Ma quando dormi? Pochissimo, ma vado a dormire molto presto perché la sveglia è alle 5:30, per cui ovviamente diciamo che appena torno dall'allenamento svieni. Mangio super veloce e svengo, tant'è che stavo pensando di portarmi in palestra direttamente il pigiama da mettere dopo la doccia. È una cosa che ho sempre sognato ma che non ho mai avuto il coraggio di fare, però insomma è dura la giornata, però sai, ci vuole impegno nella vita ed è quello che ci sto mettendo. Io sento veramente tantissima in ogni cosa carica che faccio. Nella tua voce. Sì, questo... sai, dopo un anno e mezzo di fisioterapia, da un bel po' ormai ho cominciato a lavorare con il mio preparatore che appunto non vedevo da tanto tempo, ho cambiato maestro, sono piena di entusiasmo perché insomma così un maestro nuovo, giovane, è stato un campione, è severo ma simpatico, per cui mi sta motivando molto e sai, dopo tanto tempo che non facevo una cosa che sono abituata a fare da una vita, ovviamente l'entusiasmo, insomma, guai se non ci fosse, no? Sì, no, certo, a doppio lavoro, doppio lavoro per te. Brava, stringi i denti anche dolore. Perché anche, immagino, però soprattutto però... doppio lavoro, giornalista e atleta al massimo livello, grande stima, cara Marghi, ciao, grazie. Ciao, buona giornata, ciao e grazie. Un abbraccio, ciao. Grazie a te, Margherita Granbassi, ci fermiamo per il traffico e poi vi aspetto, 800 24 00 24, numero verde, siamo qui, convocati tutti. Diciamo che per l'allenatore è convocabile, per il presidente è convocabile, quindi è pronto a giocare. Tutti convocati. Mancano 9 follower per arrivare a 5.800 su Twitter per noi, quindi sbrigatevi, datevi una mossa per favore, convocati ascoltatori anche su Twitter, 800 24 00 24, invece questo è il numero verde per parlare con noi, che è la cosa che mi fa più piacere. C'è chi mi scrive: sei un gobbaccio, ti sei tradito con l'intervista a Margherita. E perché? Cioè, non ho capito, ogni pretesto è quello buono per darmi dei titoli, che io comunque in caso senza problemi, tanto non è vero. Risultati del match Federer-Tsonga, chiede invece un altro ascoltatore, tra poco vi dico molto di più degli Australian Open. Comunque Federer-Tsonga 5-7, 7-6, 4-6, 7-6, 3-6, 6-3 e vince Federer dopo questa maratona che è finita a notte fondissima in Australia. Fabio Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Salve gente. No, io la chiamavo per probabilmente il rigore di ieri sera per la Juve. Sì. Io ero allo stadio, visto nitidamente, e tra l'altro tifoso laziale nella curva della Juve, sì, visto a 20-30 metri, Vucinic ha cercato la gamba del difensore laziale, tra l'altro non mi ricordo manco qual era il difensore laziale, Vucinic ha cercato stare, il piede, sì, è caduto, sì, punto. Sì. Non, se fosse stato il contrario, cioè il rigore proprio non si sarebbe manco parlato. Sì, in che senso? Nel senso che si giocava, cioè, in casa della Juve, e cioè, Vucinic cerca stato... il rigore, casca, forse a Vucinic bisognerebbe insegnargli a stare un pochino più in piedi. Che, cioè, dice, non ho capito, lei dice che c'era o non c'era sto rigore? Assolutamente no, il rigore non c'era. Sì, se il rigore poteva, no, ci poteva pure stare, ma sì, ma non starei a farla, Fabio, le dico la verità, non starei a farla lunghissima sugli episodi di ieri sera, ma anche perché insomma cioè, ha già parlato Conte e tiriamo in ballo gli arbitri ad ogni... Anche per queste partite, vabbè, semifinale di Coppa Italia è importante, però ieri sera insomma, poteva essere annullato il gol della Juventus, poteva starci rigore su Vucinic. Abbiamo visto una partita equilibrata, non starei lì a polverizzarla in 100.000 cose inutili, quindi morta lì per me. Luca, Bologna. Sì, piacere di parlare con lei. Dica, sono contento di essere convocato. Dica. Sono contento di essere convocato. Perfetto. Grazie. Prego. No, volevo dire questo. Io sono un tifoso della Juve. Sì. Secondo me Conte è agitato proprio perché ha degli attaccanti che non rendono per quello che devono rendere. La Juventus di quest'anno, come quella dell'anno scorso, tutto quello che lo fa sulla carica che gli dà l'allenatore, che gli dà lo stadio. Se la squadra della Juve, che tutti dicono che è più forte di tutti, è fortissima, giocasse, non fosse caricata come viene caricata in uno stadio normale, io non so. Ma guardi, Luca, resta il dato della, insomma, della quantità di tiri in porta che la Juventus deve fare. Ieri sera, ripeto, una quarantina, non ho il numero preciso, però siamo lì, per segnare un gol. Fa una tremenda fatica la Juventus nel trasportare la grande mole di lavoro che fa, questa carica, questa pressione, eccetera, eccetera. Fa una gran fatica a fare dei gol, quindi... sarà per quello che Conte è nervoso. Non dimentichiamo nemmeno che anche l'anno scorso la Juventus fece un girone d'andata basandosi sui gol che furono molti di Pepe, di Marchisio, sugli inserimenti dei centrocampisti. Quest'anno c'è Popga. È chiaro che Conte, non, al di là di Vucinic, che stanno cercando di rimettere in piedi, non ha un attaccante che lo soddisfi pienamente, perché Matri mi sembra non gli vada tanto a genio, con Quagliarella non ne parliamo, Giovinco ha trovato il posto stabile da titolare ma ancora non riesce ad essere totalmente decisivo, e Berner è perfino infortunato, ma insomma non è che cambiasse molto nemmeno quando era sano. Quindi un attaccante di livello, la Juventus ce l'avrebbe bisogno, butto lì Pippo Inzaghi, uno che ha il fiuto per il gol e che riesca a trasformare in oro tutto l'argento che viene prodotto dalla miniera. Dario, provincia di Bergamo. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Volevo intervenire inerente al discorso del ciclismo. Io posso portarle due esempi velocissimi. Sì. Mio nipote, che ha dovuto smettere di andare in bicicletta perché lo volevano dopare, aveva 14 anni. Sì. E non faccio fatica a crederlo. No, glielo posso garantire perché a quei tempi ero in polizia, per cui sono andato a vedere anche altre cose. È successo qualcosa, ecco, dal punto di vista anzi, l'hanno proprio eliminato dalla serie, statene a casa, che visto che non vuoi doparti non servi più. No, ma questi signori che gli hanno detto vuole doparsi non servi più, hanno vanno avanti a fare il loro lavoro regolarmente, hanno ancora ragazzini sotto, perché nessuno, quando siamo andati, ci siamo informati, abbiamo tentato di fare qualsiasi cosa, ci hanno praticamente chiuso tutte le porte in faccia, mi ha detto ma ci vogliono queste prove, ci vuole questo, ci vuole quell'altro, alla fine non ha fatto niente nessuno. Le posso garantire che tuttora ho gli amici che le dico solo che cotta i fanno la domenica per andare in bicicletta e scommettersi la pizza, efedrina, aspirina e cibalgina, praticamente si creano un infarto pilotato, picchiando la pelle tutte le domeniche per andare in bicicletta. Infatti, questo è il doping a livello amatoriale, ma a livello lei ha perfettamente ragione nel raccontarci una verità da brividi, ma che io ho mille volte sottolineato, perché ogni tanto troviamo le notizie sui giornali locali della tal corsetta, e c'è un 43enne che misteriosamente, professione butto lì, infermiere, muore di infarto. È un trafiletto questo, o magari una spalla, però io so benissimo che il vero problema è proprio quello. Adesso, prima di Francesco da Taranto, però io voglio andare agli Australian Open quantomeno per riepilogarvi i risultati che ci sorridono nel doppio. Ho detto all'inizio, in apertura di programma, Sara Errani e Roberta Vinci, numero uno del tennis mondiale in coppia, in doppio. hanno vinto contro Makarova e Vesnina 6-2, 6-4 e sono in finale dopo aver battuto le sorelle Williams. Benissimo anche Fognini e Bolelli, semifinale però sarà durissima con gli specialisti americani Bob e Mike Bryan. Serena Williams battuta da Sloane Stephens che va in semifinale, semifinale anche per Murray che batte Chardy e per Federer, come ho detto prima, in 5 set contro Tsonga. Facciamo in tempo a sentire la voce di Robertina Vinci? Via. Siamo forti, in questo basiamo anche determinati doppi dove la palla forse non la sentiamo tanto. Oggi, ripeto, non era facile, dicevo a lei, io non, era difficile giocare, c'era molto vento, le altre una mancina, però è venuta fuori la coppia di doppio forte che siamo. Io chiudo convocando domani alle 2 Francesco da Taranto, che oggi non riesco a far parlare. Mi dispiace molto, ma tempo scaduto, game over. Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Domani, primo convocato, se ne ha voglia, Francesco da Taranto. Ciao a tutti.